Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Buonasera, buonasera da Blue Radio Veneto, buonasera da Agostino Spolaore e buonasera anche da... Da chi? Da te. Da chi? Da me? Te. Buonasera Agostino. Pensavo fosse distratto, invece no, sei attento. Io sono sempre presente, il martedì, sì, sì. Sia mercoledì e giovedì con te. Benissimo, allora buonasera, dicevo, da questa emittente, la vostra emittente preferita, cioè Blue Radio Veneto, anche questa sera giovedì, il primo giovedì del mese di marzo, con Agostino, con Maurizio, dicevo, per questa serata nella fascia oraria chiamata Blue Time, ovviamente c'è un come dire, una un serata, live, un live, un concerto dal vivo in acustico. C'è sempre qua dentro. Certo, e lo facciamo anche questa sera. Prima di presentare i nostri ospiti di questa cavalcata di 90 minuti circa di musica, vi voglio ricordare il nostro numero telefonico, quello in studio è lo 049 875 6423, e mentre gli sms se ce ne volete mandare, noi siamo sempre ben disponibili a leggere i vostri messaggi, anche le vostre domande che ci fate, insomma, e anche che fate a questa band, in questo caso in questa sera. Vi ricordo il 346 2320 033, il nostro sito dove, se siete sintonizzati in streaming, ci state ascoltando appunto da www.bluradioveneto.it, lì ci potete sentire 24 ore su 24, tutti i giorni, continuamente, non c'è mai fine, e quindi senza soluzioni di continuità, si suol dire in queste certe occasioni. E poi ci sono tutte le notizie inerenti alla nostra regione, cioè il Veneto, ma anche al di fuori, e poi le recensioni, gli articoli sui nostri artisti che passano via via qui nei nostri studi. E poi abbiamo le pagine su Facebook, semplicemente Blue Radio Veneto, l'altra è Blue Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che è anche l'organizzatore di questo evento, di questa serata. Quindi un grazie ad Alberto, ciao, so che stai ascoltando, anche se magari starà guardando qualcos'altro. Sì, purtroppo sì. Si sta guardando qualcosa d'altro. Non andiamo avanti con le cose sportive, parliamo di musica. Parliamo qui, finalmente. Qui. Allora, abbiamo in studio questa sera i Magnetofono. Ciao ragazzi. Ciao. Come state? Ciao. Bene? Bene. Beh, cortesemente, se mi parlate vicino ai microfoni, perché... va benissimo. Sì, così. Ok, Magnetofono, bel nome, interessante, ma però gli ascoltatori, mi è presente, voglio sapere com'è nata l'idea del magnetofono, musicalmente parlando. Vuoi parlare te, Ala? Sì, perché sono al centro. Perché sono al centro. Il centro, cioè, Boca è proprio in piedi. Il Boca sono in piedi, sì, sono in piedi. È sempre questa sfortuna qua di stare in piedi. Allora, intanto, grazie di averci, di averci invitato. Bene, grazie a voi. Com'è nata questa, per definizione? Allora, perché questo malefico trio è nato dalla voglia di entrare in questo linguaggio, in quello degli anni 60 italiani. Sì. E quindi eravamo consapevoli che comunque il magnetofono ha permesso a molti cantautori di salvare le proprie idee dal proprio studio, dalla propria cucina, dal proprio soggiorno, per registrare appunto la propria strofa, il proprio ritornello, quello che poi è diventato il brano che stiamo ascoltando magari ancora adesso, dopo, certo, 40 anni, di un Luigi Tenco, di un Nicola Ridiano. Quindi abbiamo visto nel magnetofono questo mezzo che ha permesso a certi cantautori di registrare, di salvare le proprie idee e portarle in disco, in bobina, ecco qua. Come si usava una volta, e si usa nuovamente, sì, visto che il vinile è ritornato. C'è stato un remake anche addirittura, ho sentito anche soprattutto nell'ultima musica inglese, anche così, di riprendere addirittura il magnetofono per registrare. Ah, bello, una cosa molto bella questa, molto interessante. È una situazione vintage, no? Che anche fa un po' di moda così. Comunque, ecco, questo è il motivo del magnetofono. Ecco. Quindi l'idea parte da quello. Sì, parte da quello. Eravamo in cucina perché Marco e Lele abitavano insieme e io andavo così di frodo. Non pensate male. Ecco, no, pensate pure male. No. Sono due normalissimi ragazzi, amano tantissimo la fisarmonica, perché è veramente una cosa bellissima, perché io sono entrato in cucina e ha detto Alan, Lele, abbiamo fatto 8-9 pezzi, dobbiamo andare andare nei locali, non sappiamo come ci dobbiamo chiamare. E ecco, ed è nata così, proprio in cucina. Mi ricordo che lei, Marco era seduto a destra e lei a sinistra con il solito pacchettino di cracker a bottiglia d'acqua naturale che non ci passava in questi per fare così. Ho detto come ci chiamiamo? Abbiamo tirato fuori altri nomi, ma penso che abbia vinto subito, no Marco? Il magnetofono. Sì, ma proprio ci siamo affezionati e poi ci siamo affezionati al logo e abbiamo cercato di riprendere, non so se sicuramente te ti ricordi perché non volevo dire quello. Assolutamente, insomma, hai i capelli bianchi. Noi, voi da casa non vedete mai i capelli bianchissimi. Comunque, dillo pure, bianchissimi. Ecco, basta. No, volevo dire appunto che abbiamo ricercato anche nel logo, come vedi, di riprendere un po' l'effetto Lisa. Ti ricordi? Sì, mi ricordo. Ecco, comunque sono goliardi queste cose. Questo quando è successo? Quanto tempo fa? Allora, cosa è successo? Ormai due anni fa. Due anni fa, perché comunque siamo partiti subito in quarta. Pensati che il primo repertorio che avevamo fatto a 5-6 km da casa, almeno, e ti dico quant'era Lele? Quanti? 10 brani. Siamo stati molto coraggiosi perché non sapevamo come, sai perché ci sono questi standard dell'ora e mezza, l'ora e 45, però noi poi siamo andati di improvvisazione, alla fine è una caratteristica. Ma i primi pezzi non erano vostri? Noi eravamo stati chiamati come il magnetofono 16 Italian Jazz. Perfetto. E ci eravamo fatti questa per definizione questo. 60, però tu hai citato Nicola Egliano, qualcuno cita Fred Buscaglione, un po' più di dietro. No, ma infatti sei stato bravissimo. Beh, queste domande vengono comunque da persone attente, infatti mi fa piacere rispondere a questa cosa. Noi abbiamo fatto un lavoro di ricerca perché per acquisire il linguaggio che ci ha portato a fare questo CD abbiamo dovuto studiare un certo modo di comunicare, di fare musica, no? Certo. E quindi ovviamente il jazzy, come è stato chiamato ai giorni nostri, tricolore, insomma, Nicola Rigliano è stato lui a portarlo anche nella vecchia Rai, nella bigottissima Rai, no? Certo. E invece Buscaglione è stato quel fenomeno quasi un sinonimo dell'Italia, è stato come un passaggio, no? Uno spaghetti mandolino però fatto molto più con molta intelligenza, però. Mamma mia. Ironico sì, di facciata, ma dentro aveva delle cose molto molto forti. Le cose forti Rino Gaetano degli anni 50, possiamo dire. Rino Gaetano ha un po' ripreso queste cose, anche se poi è stato capito dopo, come sempre. Bellissima. Rino Gaetano degli anni 50, secondo me, io lo penso così. Rino Gaetano era uno che, tu lo sai benissimo, che le cose le diceva e al primo impatto piaceva e non piaceva, è piaciuto dopo, però purtroppo molto dopo c'è stato un camion, una macchina che si è dato tutto, ha fatto una brutta fine, l'ho fatto anche Fred Buscaglione così sì. C'è un collegamento purtroppo anche su questo. Cosa dici Agostino? Apriamo la finestra, facciamo sentire un pezzo. Io lo farei già appunto come dici tu subito. E con la canzone che apre il disco, ci vuoi dire qualche parola, Ana? Oppure... Sì, Baby Doll è nata nei posti che noi frequentiamo di più, cioè o sono le case nostre o sono i bar. Ah, perfetto. Ma no, non è che siamo alcolizzati, in senso che noi suoniamo molto in questi club, in questi locali, ed è qui dove abbiamo visto nascere e morire molti amori. E io mi sono immaginato che fossi già stato lasciato da questa donna immaginaria e camminavo in questi laghi di stelle ed entravo nel mio bar preferito e il barista mi dice: guarda che non è più tempo per piangere, quindi beviti questo caffè e comincia a vivere veramente la vita. E quindi Baby Doll è un pezzo, noi ragazzi diciamo abbiamo ormai, con tutte queste date che abbiamo fatto, abbiamo avuto la fortuna di fare, noi lo chiamiamo romanticume sprecato, cioè perché qualcuno deve in questo schifosissimo mondo musicale deve ancora parlare d'amore senza vergognarsi. E quindi è un pezzo d'amore, ecco, che vogliamo o no, non, perché sai, è un po' così, no? Adesso fare la canzone d'amore è proprio affermarlo, confermarlo, è un po' difficile, no? Perché è stato qualcosa di passato, di ripassato. Invece con questo pezzo me lo vedo nostro, insomma. Oh, benissimo, adesso lo sentiamo allora. E con la pioggia. E con la pioggia. Buonasera, un caffè per cortesia. Uomo che correva sopra i piccoli laghi di stelle. Frena. Frena, salti un bar. Dietro i vassoi la voce ti allungo la vita con un caffè. Lei sa, non è fatto per dormire. Lei sa, veste di sole, poco sereno. Vedo che in lei, vedo non c'è più fede, ma senza di lei certo non può più stare. Fuggire in un panorama poco ben definito. Lei non è più qua, non ha più senso stare in questa città. Lei sa, non è fatto per dormire. Lei sa, veste di sole, poco sereno. Vedo che in lei, vedo non c'è più fede, ma senza di lei certo non può più stare. Blue time live. C'era anche la femminuccia alla fine, Alan. Sì. Io non volevo, se vedi che sei stato tu a provocare, perché è inutile che all'inizio fate discorsi e poi mi dite c'era anche la femminuccia, Alan, perché comunque quella femminuccia lì non abbiamo fatto niente, ok? Agli amici a poi casa non è successo assolutamente niente e mi ha lasciato per dispetto il baby doll nel comodino, ecco, quindi il titolo è per quello, ecco. Maledetto. Baby Doll, la canzone che apre il disco di questo gruppo, di questa band, il Magnetofono, insomma. È un pezzo assolutamente da club, questo qua, sì, si sente, esatto, sì. Odora da club, odora da un po' oridico, nel senso di psichedelia, anche se poi continueremo a parlare del disco, quindi avanzeremo, allargheremo il raggio, ma è un pezzo da club, quindi con delle sonorità levigate, quasi appena accennate. La tua voce è una voce importante, una voce che scava, e la musica è all'intorno della voce. Eh sì. Diciamo che, come dice Lele e Marco, la musica è fatta per le parole e le parole stanno sopra la musica. Quindi non è che sia, è questa interazione continua che ci è un attimo, è un, cosa, come posso dire, la nostra caratteristica. Insomma, il vostro DNA. Sì, perché i pezzi nascono insieme. Mm-hmm. Ma come nasce prima il testo o la musica, o battistianamente prima la musica e poi il testo? Diciamo che in questo caso prima è nato il testo con la melodia, però poi il lavoro è stato di Marco e di assemblaggio praticamente. Quindi io adesso sono stanco di parlare. Ecco, Marco, adesso uno dei due deve prendere Marco e Emanuele, poi adesso parlano del discorso dell'arrangiamento sonoro. Alan ha parlato della vocalità. Io sono arrivato con la melodia e non mi hanno picchiato, quindi ho pensato che fosse stata una buona idea come melodia, e poi il lavoro l'hanno fatto. Come lavoro, come avete sviluppato questa melodia che ha portato alla praticamente. Marco, vieni avanti, vieni vicino. Beh, all'inizio abbiamo cominciato. Dopo parla anche Emanuele, è pronto, vedo che è pronto. È come un corvo. Si è vestito di nero, si è vestito. No, praticamente all'inizio abbiamo lavorato in stanza insieme, abbiamo provato a suonarci sopra a questa melodia. Abbiamo provato a vedere cosa poteva venire fuori sulle note di Alan e su questo testo, su quello che ci poteva ispirare. E dopo pian piano un po' di ispirazione, un po' di, non lo so, insomma, prove. Abbiamo provato tanto finché non è venuto fuori questo. E questo almeno per la parte della, l'abbiamo abbozzato così il pezzo, con gli accordi e tutto. E poi chiaramente l'arrangiamento, gli archi, il fatto, tutti gli arrangiamenti che ci sono sopra li abbiamo scritti postumi di questa cosa, chiaramente, perché sentivamo il vuoto nel pezzo e abbiamo cercato di arricchire per rendere ancora di più l'atmosfera di quello che volevamo creare, di quello che avevamo in mente, per rendere meglio il testo, insomma. Benissimo. Sì, Emanuele. Fondamentalmente sì, il lavoro che abbiamo cercato di fare era comunque valorizzare il testo, perché cioè, sì, la musica è solo un traino praticamente. La musica traina, oppure può essere che il testo si cali all'interno della musica, cioè comunque sono cose complementari, insomma, non sono cioè si devono anche un po' inseguire, si devono mescolare tra di loro, e questo abbiamo cercato di fare, insomma, più o meno in tutti i brani l'alchimia è questa, cioè il meccanismo è questo, cioè questa fusione può sembrare una cosa banale, perché uno dice sì, certo, in tutta la musica le cose si fondono, però è anche vero che almeno per i miei gusti, anche nella canzone italiana, potrei dirti che, come si dice anche, c'è, cioè, la musica tipo quella del cinema, che è una musica a volte didascalica, che sottolinea, ti faccio l'esempio, tipo nel film del terrore compare il personaggio e c'è la musichetta che descrive, cioè noi non facciamo questa cosa qua, come secondo me invece avviene in certa musica anche pop, o anche magari un po' meno pop, con velleità di altro tipo magari, però cioè, la musica deve essere tutt'uno, cioè non deve essere una cosa schematica che si fa, ah, lì metto questa cosa perché funzionerà, ci metto una solo di chitarra perché ci va, a seconda del genere. Perché siamo soliti, cioè, a sentire così. No. Non è uno schema, quindi noi abbiamo seguito proprio le parole che ci suggerivano anche l'armonia stessa dei pezzi. E l'istinto soprattutto. Alle volte davvero basta usare l'accordo tra un accordo maggiore e un accordo minore, parlando anche un po' di musica, voglio dire, e può cambiare completamente il significato del testo. Sì, poi questo si riallaccia al discorso che lui ha fatto, che ha fatto Alan nella presentazione che abbiamo nel sito, cioè praticamente lui tu Alan hai detto che senza l'ausilio, noi abbiamo registrato il disco senza l'ausilio di quei massicci sistemi di processione sonora. No, infatti, cioè, quando i ragazzi parlano di arrangiamento abbiamo un concetto molto contemporaneo, cioè in certi brani anche il suono acusmatico, cioè quello proprio il treno che passa la strada, per noi lo consideriamo un arrangiamento. Ho capito. Cioè quando Marco ha detto, correggimi se sbaglio, di vuoto, si intendeva anche questa sensazione, cioè dov'è il nostro personaggio? Se non siamo riusciti a farlo capire con un accordo minore o con un inciso di Marco, abbiamo fatto cioè siamo andati a registrare con microfoni da cinema il treno davanti a casa mia. Perfetto. Perché il brano è nato nel balcone, quindi volevo che la gente capisse che si stava parlando di una stazione. Quindi non c'è niente di costruito ad hoc per quel momento, sono cose che vengono prese, vengono sistemate, ma vengono prese dal vivo. Quelle sì, erano. Sì, perché abbiamo avuto la fortuna, almeno per la mia esperienza personale, che questi pezzi sapevamo già dall'inizio dove Dovevamo andare. Infatti io avevo risposto, non so a che giornalista, avevo detto che erano già dentro di noi, facevano già parte del nostro DNA. Esattamente, sì. Dovevano soltanto uscire. E io ho trovato, almeno per me, due musicisti che mi permettono di cantare in un certo modo. Perfetto, ho capito. Capito, ho capito. Cioè, queste sono frutte delle vostre esperienze, questo modo di registrare, questo modo di approcciare il discorso che voi avete prima di arrivare a questo, avete fatto, avete cominciato con la musica degli anni 60 con le cover, ma cover rivedute corrette da voi sì, o no? Sì, sì, sì, sì. Cioè, non cover, perché una volta si usava, tu puoi correggermi, le cover a tornasole, cioè per esempio citiamo i Dick Dick, che era l'antonomasia delle cover, non facevano nient'altro, Mogò storpiava i pezzi, storpiava, inventava un testo e lo riprendevano pedissequamente la musica, non cambiavano, mentre i nomadi cambiavano, inventavano. Augusto inventava, secondo me. Sì, sì. Qual sì, è sì, la vostra, il vostro metodo di paragone? Era, perché dopo adesso fate musica assolutamente da voi, vostra. Beh, ti dico, il materiale, quindi il pop internazionale è anche sinonimo di genere musicale, cioè certi generi sono nati in un certo periodo storico, quindi arriva anche a un certo punto che dici perché scervellarmi se ho già degli standard fantastici, no? Certo. È come per il jazz, ci sono musicisti che suonano standard da 40 anni, no? Sì. Ci sono persone che suonano brani pop super riusciti ancora dopo 40 anni, cioè quindi un brano dei Beatles ha più senso suonare originale o scoppiazzarlo il più possibile che fare magari una traduzione o una rivisitazione, cioè io la penso così, cioè è molto più facile, facile inteso non come la facilità di cioè, ma arrivare al pubblico con una versione, anche perché negli anni 60 voglio dire era un contesto storico sì, diverso, però, non c'era, non era così multimediale, però c'è chi lo fa in modo alla Dick Dick, chi lo fa alla Nobody. Noi abbiamo avuto la fortuna che certi ragazzi anche più giovani, quindi perché noi con il nostro genere ci rivolgiamo a target diversificati, abbiamo la fortuna di far sorridere diverse età, capito? Mm-hmm. Quindi la persona tipo da 60 anni ha riconosciuto il brano di Tenco. Mm-hmm. Il ragazzo giovane invece è stato conquistato da una poesia nuova, da quello che si sentiva che era già qualcosa di suo, di italiano, ma non aveva mai sentito così declamato, cioè come quello di dire cara ti amo, capito? Ho capito. Quell'amo lì era un amo che è diverso, perché non siamo più abituati a sentire, siamo abituati alla Pausini o alla Sdolcinata o a un Eros Ramazzotti al suo nasale che ormai è Magnesi. Quindi bisogna abituarsi a un altro concetto. Siamo nel 2013 e quindi è per quello che noi siamo arrivati ad un certo punto che eravamo quasi logorati, no? Perché è sempre cover? Perché adesso che abbiamo capito come si dice una cosa, si cresce sempre ogni giorno, non abbiamo mai finito. Però come vorrei dire qualcosa di mio, di nostro, certo, capito? Certo. Quindi era il passaggio, era logico. Era logico. Dovevate sì, arrivare a questo. E siete esatto, arrivati a esatto, questo. Sì, è anche vero che comunque chi fa cover, secondo me, se ci mette qualcosa di suo, pur rimanendo una cover, è più apprezzato, secondo il mio punto di vista. Ma infatti è come... Cioè, perché se tu vai, come diceva Maurizio prima, i Dick Dick che... Io non c'ho niente con i Dick Dick. Sì, no, per carità. Assolutamente. Però io mostri sacri, esattamente, ragazzi. Però, perfettamente. Se devi fare qualcosa, pur stando cover, dicevo, è bello farlo con la propria immagine, con i propri arrangiamenti, capisci? Certo, certo, no, sì, sì. Infatti ti dico, nel caso anche di Lele Marco, io avevo anche dei limiti, cioè in senso, se devo cantare la canzone di Vedrai Vedrai di Luigi Tenco posso interpretarla, però è la canzone di Luigi Tenco. Tenco, sì, beh, certo. Il Marco e Lele della situazione hanno trasformato questo, cioè si sono avvicinati al mondo originale, no? Dell'RCA Ricordi, perché c'è proprio il disco che possiamo ascoltare, no? Però me l'hanno espresso in maniera tale che mi hanno permesso quasi di viverla in prima persona, capito? E certo, le persone vedevano questo. Ho capito, certo. Beh, 170 concerti fino a quelle che ho letto io, saranno molti di più adesso, sono pochi per una band cosiddetta emergente tra virgolette. Sì, dal nome siamo dal nome. Ognuno di noi ha avuto altre esperienze, ovviamente. Ognuno di noi ha avuto molte altre esperienze musicali che hanno dato frutto, però sì, e tuttora facciamo anche altre cose. Diciamo che questa formazione è quasi sperimentale da un certo punto di vista, anche negli arrangiamenti che ci sono nel disco e che poi si sentiranno, certo, durante la trasmissione. Cioè abbiamo messo un, fondamentalmente quello che ci piace di quello che abbiamo respirato anche prima. Le atmosfere, cioè, sono diverse tra i pezzi. Sì, frutto però c'è un collante, c'è un collante che, sono, che è il sound comunque alla base di tutto quanto. Certo, certo. E quindi un certo modo di cantare e un certo modo di suonare insieme. Questo è fondamentalmente certo. quello che c'è nel disco, cioè questo, chiamiamolo scheletro, questa cosa sotto, e noi ci abbiamo messo dentro quello che ci piaceva. Chiaro, chiaro. Quindi abbiamo sì, infatti sai quante parole che ho preso al bar, finito le prove, io perché? Devo scrivere a uno che fa una recensione, che genere è? Cantautorato italiano. Cantautorato. Marco con impostazione, cantautorato italiano. Sì. Sì, ma vedi, io non perché chiaramente non, la forma cantautorale è sì. sicuramente diversa da quella degli anni 60, certo. 70. Ovviamente è anche difficile stabilire in quale categoria, tra virgolette, sì, ma il recensore ha bisogno di avere un input, hai capito? Certo. Ha bisogno, assolutamente bisogno. Etichetta, no? Se no cosa scrivono su Mucchio Selvaggio Blow Up se non si scrive pop o alternative band rock? Sono d'accordo con te, però purtroppo il lettore, il lettore che segue una rivista rock, Mucchio Selvaggio, Rockerilla, eccetera, sì, esatto. Ha bisogno dell'input, ha bisogno, questo fa pop, questo fa rock, è sbagliato, sì. Siamo d'accordo, la musica è universale, però quell'input ci deve essere, c'è poco da fare, è una cosa negativa, sono d'accordo con te, è riduttiva per l'artista, però esiste, esisterà sempre. No, beh, certo, bisogna dare un'indicazione, ovviamente, comunque... Diciamo, io la vedo così, è cantautorato fondamentalmente perché sono canzoni, magari uno si aspetta che il cantautore è quello che suona la chitarra, di solito, non so, siamo abituati più o meno a quella figura, però certo. In realtà è il testo che riguarda il cantautore fondamentalmente, quello era un tipo di icona anche già, che esiste tuttora e va bene che esista, però voglio dire ci sono, io lo definirei così, un cantautorato comunque, perché sì, un po' sperimentale, perché comunque la formazione non è certamente tipica, voglio del dire cantautore. Assolutamente. Però quella è il concetto, secondo me. A proposito, Agostino, cantiamo, suoniamo dal vivo o suoniamo dal disco? Cosa volete? Cosa scegliete? Cosa dai, adesso facciamo un po' dal vivo. Eh sì, fate un live, dai. Fate un live. Un live, dai. Cosa ci fate ascoltare adesso? Adesso ti facciamo ascoltare 5 minuti. Ok. 5 minuti. È un brano... un attimo che ho il contrabbasso di dietro, perché la gente dovrebbe vedere un PO dall'alto di cosa sta succedendo. Assolutamente, in tutto dal vivo. Tutto dal vivo. Il bello della ecco. diretta. 5 minuti mi sarebbero bastati in quel momento per dirle ti amo. Mm-hmm. Però non c'è da niente con Maurizio Arcieri. No. Assolutamente. Fortunatamente non c'è da niente con 5 minuti e poi Maurizio Arcieri. Anche se all'epoca era un pezzo beat di un certo tipo. Esatto. Ok. Sarebbero bastati 5 minuti per dirti ti amo. Sarebbero bastati 5 minuti prima di lui, prima che tu. Con quello sguardo spento domandassi scusi, hai da accendere. Per quello che ho cominciato a fumare. Per 5 minuti la mia vita cambiò, perché per 5 minuti non ho potuto morire vicino a te. Complimento, non avrei potuto fare di più. Ricordo l'accendino d'oro che usciva dalla giacca blu, e invece io stavo lì. Vicino al bar. Casa nuova, chissà che storia, io e te il gatto Lulù. Tu in giardino, tra i tuoi fiori, tranquillo amore, resta a sognare. Sorridi al sole, sarebbe bastato uno a lavorare. Vedevo il film della mia vita, senza lacrime, nel finale. E da lì che ho cominciato a bere amore solo per te. Mi complimento, non avrei potuto fare di più. Ricordo l'accendino d'oro che usciva dalla giacca blu, e un giorno io, sì, mi ricordo ancora che stavo lì vicino al bar. Fare di più. Ricordo l'accendino d'oro che usciva dalla giacca blu, e invece io, e invece io, e invece io ero un po' così lontano da parte. E mi è arrivato questo accendino, mi ha acceso la sigaretta, non l'ho più vista. Beh, vuoi anche pensare che sarebbe bastato uno a lavorare. Mamma mia, che bello suonare dentro una radio. Era la prima volta che lo facevi. Sì, no, se c'è questo effetto che è chiuso, no? Sì, certo. Siamo abituati a sentirsi in acustico. Mm-hmm. Beh, siamo... cosa che sto parlando ancora. Non importa, no, ti ho lasciato aperto. Si sente lo stesso. Ti ho lasciato aperto. L'ho messo qua. Se vuoi. No, perché ho due microfoni, non so mai quale prendo. Vuol dire che sei una persona importante se hai due microfoni. Sì, ecco, infatti. Se apriamo la televisione non è il caso di. No, non è... perché più microfoni hanno davanti più è un indice di notorietà. Comunque sì, è una sensazione sicuramente molto particolare. Poi anche è bello suonare anche con persone che di musica ne capiscono, quindi che si può anche discutere e spiegare cosa si fa nella nostra. Questo 5 minuti, io prima ho citato forse indecorosamente Maurizio Arcieri, ma siamo, era un pezzo beat degli anni 60 chiaramente. Questo 5 minuti da, proprio dal DNA perfetto della vostra musica, questa contaminazione tra la vocalità, la musica anni 60 e il jazz. Esatto, sì. Questo è il perno fondamentale di tutto l'universo sonoro del magnetofono, musicalmente parlando. Cosa dite? Siete d'accordo? Questa commistione, ma una bella commistione, una cosa. Vieni Marco, vieni davanti al microfono, vieni, non Marco. Allontanarti dal microfono. Abbraccia la radio. Vieni Marco. Questa commistione tra la vocalità ottima di Alan che e va sopra, cioè, e voi che la colorate con questo arrangiamento che è jazzistico, sì, ma non è jazzistico pesante, è un jazzistico delicato che scivola, che accompagna. No, infatti è un po' utilizzare il termine jazz è sempre difficile. Esattamente, me, è un po' una parola strano. Talmente grande come dire musica. Esatto, come dire musica. Tutto e niente, quindi sicuramente noi arriviamo da esperienze di questo tipo, perché sia Lele sia io abbiamo studiato jazz ed è un genere che ci piace tantissimo, tra l'altro, quindi l'abbiamo portato chiaramente anche nella nostra musica. Ma non l'hai portato alla esasperazione, l'hai portato no, e basta. Abbiamo cercato di restare comunque sul insomma, mantenendo una linea più pop, più. Anche se però Alan qua ha fatto un po' il Fred Buscaglione della situazione alla sì, fine. Sì, chiaro, alla chiaro, fine. Chiaro, ma comunque la voce è il contorno, cioè noi siamo il contorno della voce praticamente, almeno io la vedo così, perché insomma abbiamo la fortuna di avere questo grande cantante e dobbiamo sfruttarlo al massimo. E ti noi, ha pagato prima? Come? Ti ha pagato prima di dire no, certamente no. Non so se vedi, tu sei una persona buona perché hai pensato alla cosa, invece lui ha detto sfruttare. Hai capito? Boh, adesso mi tolgo, continua pure. Ha detto sfruttare. Niente, basta, cioè cosa c'è da dire? Insomma, noi abbiamo cercato di mettere quello che conoscevamo e quello che ci piace fondamentalmente nella nostra musica, e il jazz è una caratteristica nostra che abbiamo cercato di portare sempre, chiaramente non esasperandolo, perché insomma la musica strumentale è una cosa, la musica cantautorale con un testo è un'altra, e abbiamo cercato, siamo andati più verso la direzione del cantautorato, insomma. Prima Alan ha citato Tenco, e Tenco aveva nel DNA il jazz, assolutamente, anni 50, era proprio il perno fondamentale del suo DNA. Gliel'hanno tolto? Gli hanno tolto, sì, sono d'accordo, però l'aveva, l'ha sempre avuto. Il famoso grande successo Ciao amore ciao non era così, era totalmente diverso, è stato cambiato per esigenze sanremesi, era noi, totalmente diverso. Noi, ti pensi che, posso dirlo ragazzi? Dimmi, vai, vai. Ci scomunicano. E ci siamo immaginati, magari una prossima volta, magari. Una prossima volta. Ci siamo immaginati come sarebbe stato il ritornello originale, cioè quello che la RCA non gli ha fatto cantare. Sì, era censurato. Ci siamo divertiti una volta in soggiorno. Mi volevo dirtelo. Sì, d'accordo. Sì, lo so, certi pezzi di Tenco erano stati censurati proprio a priori, perché l'epoca era così. Ma ritornando a voi, musicalmente sì, è un discorso interessante. Questo anche cercare, perché Alan sta facendo teatro, si muove come un teatrante, assolutamente, nel senso positivo. Perché avete, ci sono tante cose, non c'è solo la musica nel vostro muovere nel palcoscenico. C'è un sacco di riferimenti collegati. Emanuele, vieni avanti. Spiega ai nostri ascoltatori che riferimenti ci sono. Tanti riferimenti, tanti reading, tante collaborazioni. Sì, come ti dicevo prima, comunque cioè, penso che tutte le esperienze che si fanno nell'ambito artistico musicale, prima o dopo, a meno che uno non si voglia ghettizzare da qualche parte, comunque poi se c'è anche un progetto, comunque la volontà di fare una cosa e si lasciano fuoriuscire diciamo, queste esperienze, sono tutti colori, come Marco diceva prima, certo. Il jazz. Ma per esempio lui stesso ha una formazione, suona del jazz manouche, quindi comunque è un genere che ha ulteriormente delle altre caratteristiche, abbiamo avuto comunque tutte altre esperienze anche nel rock, ma qualsiasi cosa, qualsiasi colore della musica appunto non deve essere bandito da un altro mondo, no, fondamentalmente. Cioè vostra è una band libera, cioè, libera, diciamo che l'importante libera. È che le cose non siano una cozzaglia, no, giusto così, no. Pretenziosa, no? Cioè, a meno che non sia una cozzaglia, cioè tutti gli stili possono anche convivere tra di loro, quindi è questo che fondamentalmente anche questa cosa effettivamente in teatro si è vista anche nella presentazione del nostro disco. Era il posto giusto. Dov'è che l'avete presentato? L'abbiamo presentato al Teatro Brusnelli di Due Ville, due settimane fa circa. E a Venezia? Al Venezia, al Teatro San Gallo. Uh-huh. E quindi si presta proprio a, come dicevi te, sicuramente... ha un'interpretazione anche proprio sì, visivamente certo, teatrale. Poi si presta, visto che voi avete collaborato con Frank Antoni, grandissimo personaggio, assolutamente non quantificabile, e poi avete collaborato con Capovilla del Teatro degli Orrori, altro personaggio di altro genere, sì, perché, di altra scuola. Perché appunto è la concezione di gruppo aperto, cioè nel senso, io penso che se i musicisti continuano a vivere così, la musica non andrà tanto lontano. Se invece la si vede come un motivo di lavorare insieme, di collaborare insieme, infatti il brano tipo La ballata di Nostro Signore o Non ho finito, io l'ho scritta pensando non alla mia voce. È come se Marco avesse scritto un pezzo per cello, capito? Ho capito. Cioè, in senso, è un arco, è una voce, però è un'altra frequenza. Ecco, io ho immaginato la voce di Pierpaolo. Per Frick, invece, ho visto la declamazione, il suo cinico, la sua comicità tipica da passato schianto. Anche qui. È passato qua e lui ha declamato qui. Un suo pezzo famoso. Ecco. Per 10 minuti è rimasto in piedi, per 10 minuti ha declamato un suo pezzo, perché lui è così, lui è sempre stato così, è un performer al 100%, forse uno dei più grandi in Italia come performer, cosa sì, dici? Da palco, da palco, sì, anche da perché palco. Ha messo insieme l'idea del rock, sì, indipendente, quello dal vivo, proprio quello, il punk. Il, no? Punk, esatto. E, sì, e il suo concetto demenziale. Cioè, esattamente. Ha fatto nascere dagli Squallor a Elio e le Storie Tese, cioè ha dato veramente l'incipit iniziale per un certo tipo di musica. Anzi, lui meriterebbe molti più riconoscimenti. Lo so, però. Però li hanno sempre fotografati con questo concetto punk di scavezzacollo che non potevano fuori nascere fuori delle righe, sempre, esatto, stato. Poi tu avevi parlato di un'altra cosa, la collaborazione, però su un'intervista hai anche citato, hai anche ribadito il concetto che spesso e volentieri in Italia certi musicisti tirano indietro alla collaborazione. Invece si dovrebbe collaborare come fanno spesso e volentieri negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, in Olanda. In Italia no, tirano indietro. Perché tirano indietro, secondo te? Perché hanno paura di perdere la scena. Vogliono sempre coltivare l'orticello. Sì, è vero, c'è questo provincialismo, no? Ma è un peccato mortale, veramente. Cioè, ti dico... Ma vedo anche nella scena locale nostra, io sto puntando adesso anche uno spettacolo che faremo al 29 insieme a un musicista, a Tony La Muerte, che è praticamente una woman band che suona batteria, piede destro, sinistro e rullante e chitarra resofonica, giusto Marco? Si dice bella, così. Bella chitarra resofonica. E in slide, così, e lui declama questa canzone, questo blues malatissimo, e è interrotto da noi che facciamo il genere, quello che stiamo ascoltando. Sì. Quindi è anche quella voglia di mettere insieme dei target di un pubblico differente, cioè quello del garage e quello del jazz italiano, del cantautorato, di quello che noi facciamo, insomma. E non lo so perché non c'è questa collaborazione, cioè io sto telefonando anche molto a Milano per avere mi piacerebbe portare certi cantautori qui a Vicenza, mi piacerebbe andare a Milano come mi piacerebbe andare a Roma, però boh, non so, non c'è, forse perché il mondo sta andando verso un individualismo che non si ha paura a dire ho bisogno di te. Quello è bruttissimo, capito? Perché se ci fosse un po' più di umiltà, magari la gente avrebbe più possibilità. Insomma, io la vedo così, dopo, sì. Non so, lei io... Cioè. Sì, no, diciamo che comunque la musica è un messaggio, fra virgolette, al di là del genere, è una cosa che va portata o va cercata e vista, cioè, a seconda dei ruoli o delle situazioni. Però sì, la musica dovrebbe essere molto più condivisa. Sì. Ma lì sai, forse è un po' colpa anche delle radio di cosa le propongono, perché danno... No, forse è. Beh, certamente, non è a caso nostro, parliamo però. Dei non vari Deus Ex Machina e le cose varie, sicuramente ci sono, definire le responsabilità magari può essere la parola sbagliata, però diciamo che sicuramente il clima culturale di un paese, di una regione, qualsiasi cosa... dipende anche da quello, ovviamente. Sono perché d'accordo. Se uno viene martellato solo di certe cose, è un pochettino difficile che possa aprire gli occhi e vedere altri panorami o altri scenari, o incuriosirsi, diventare curioso per qualcos'altro, cercarlo. Magari diciamo che c'è la tendenza a monopolizzare con un certo tipo di ascolto di solito. È la commercialità, no? Sì, non è solo commerciale, perché in realtà tra la musica commerciale ci può anche essere la musica buona. Il problema è che è proprio la direzione che sta prendendo la propaganda in genere, proprio della cultura. Cioè che non c'è più. Non c'è più, cioè, la cultura, in realtà, musicale. In realtà, cioè, il fermento è tantissimo, perché noi comunque conosciamo un sacco di persone e che le realtà diventano più chiuse. Cioè, individualmente, io parlo per me, ma conosco, cioè, la maggior parte delle persone che conosco, al di là dei ragazzi con i quali ovviamente suono e delle persone intorno a me che magari sono anche loro musicisti, ma molti hanno, se non lo fanno, magari hanno la passione, quindi comunque dal punto di vista, o la passione per l'ascolto, cioè non è che perché cioè, uno può leggere un libro, uno può scriverlo, comunque l'importante è che ci sia questo fermento, tra virgolette. E in realtà, secondo me, c'è tantissimo fermento, però, ti ripeto, si sono... proprio chiuse delle situazioni, sono proprio chiusi i canali, a dire la verità, cioè o uno ci arriva per sbaglio per fortuna sì, diciamo per sbaglio, ecco, diciamo questo, oppure uno si crea il proprio percorso e ci deve credere fino alla fine, è quasi una vocazione alla fine da seguire fino alla fine, perché sennò io ormai ho capito che è un karma. Hai ragione. Sì, esatto, vocazione, calma. Cioè, no, no, in senso, ho capito. Io a volte mi sento in colpa. Siamo arrivati alla religione. Io lo dico anche sulla ballata di Nostro Signore. Che sembrerebbe, no? Il pezzo, che il sembrerebbe... prossimo pezzo da poter ascoltare, no, allora. In senso che ci sono persone che non capiscono che certe persone sono fatte per fare qualcosa. E non si dà possibilità, magari è quello il discorso. Vedo molta gente, scrittori, pittori, scultori, artisti. Non parlo che l'arte come la musica, capito? Ma molte persone dovrebbero avere più spazio, semplicemente. Ma noi siamo molto curiosi musicalmente parlando, certo, qua, certo, dentro. Io devo fare una collezione ad Alan. Comunque, Freak Anthony non ha proposto gli Squallor, ma gli Skiantos. No, ha sbagliato, no. Lui non voleva dire, no, un'altra cosa, forse. No, no, ha dato l'incipit. Ah, scusa. Ah, no, ha dato l'incipit. No, no, in senso, no. Volevo interrompere. Vabbè, senti, chiusa questa parentesi, ci ascoltiamo qualcosa dal disco? Mm-hmm. Sì. Ok. Avete scelto La merenda del mago. Va bene. Ok. Allora sentiamo. Okay. Poi ne parliamo. Hai mangiato la merenda del mago, ho lasciato la mia vita per la gente come te. Hai ragione. Tu sei tutto. Tu hai sempre la morale banale. Mi dicevi e vedrai. Questo è un ballo, prima o poi, sai, finirà. Ma la risposta della tua vita mai non la saprai. Hai mangiato la merenda del mago, gira voce che tu sai anche quando morirai. Non mi alcol! Né ti fumo! Sarà un piccolo problema legato alla scarsa sanità. La gente non capisce, vado via. Vado via. Live 21:51, siamo sempre in diretta con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Marco Penzo al contrabbasso, e Emanuele Gardin al pianoforte e tastiere, e alla voce alla Bedin, ovvero questa band che ci viene trovata da Vicenza città o provincia? Vicenza città. Vicenza città, cioè il magnetofono. Io devo fare subito una domanda. Questo meraviglioso violino che si sentiva a un certo punto della canzone, chi è che è? Magari qualcuno di nostra conoscenza? Si chiama Federico Zaltron. Molto bravo. Mi è piaciuto molto. Un ragazzo giovanissimo che c'ha 21 anni. Pensa. E suona così bene. Suona così bene. Il violino è bravissimo. Magari si sta ascoltando, lo salutiamo. Benissimo, certo, visto che ci siamo, Alan, citiamo tutti i musicisti. I musicisti vi hanno dato una mano per colorare questo pezzo meraviglioso. Anche perché ci stanno anche aiutando, certo. Una parte nel live dove si può, ovviamente, perché dove si può anche fare l'opera teatrale. Diciamo, sì, no? Perché questo è il vostro, è anche un concetto teatrale, di teatralità. Esatto, bravissimo, infatti. Alan, ti stavi muovendo? Sì, infatti è un peccato non avere la telecamera. Facciamo un po' di coreografia alla sigla. Io ho un problema come mio nonno: se mi bloccano le mani, muoio. Ho capito. Ok. Bene. Guardate, allora io, grazie appunto per questa opportunità, quella di presentare anche quelli che non sono qui con noi. Quindi, alle percussioni, Valerio Galla. E suona con Fiorello, suona con Orchestra Rai, anche in Fininvest. Quindi, è una persona molto preparata. Ho fatto anche un'esperienza con lui. Pensate, sono andato fino a Tokyo a suonare con gli Opus Avantra, un gruppo progressive con lui. Come no, gli Opus Avantra è un grande gruppo, quindi ecco. Donatella del Monaco. Esatto, benissimo. E poi al Theremin, sulla ballerina di Tap, c'è niente proprio di meno che Vincenzo Vasi, conosciuto per il grandissimo lavoro che ha fatto con Mike Patton, sì, esatto. Con Mondocane. E alla tromba e filicorno c'è Gianluca Carollo, un bravissimo trombettista che anche nel live è fantastico. Al flauto Marco Girardin, al clarinetto Massimo Penzo, il fratello di Marco. Di Marco. Al trombone basso tuba un mio ex compagno di lavoro con in Sinergia, che avevamo fatto in un Sanremo insieme con Luca Moresco. Al violino questo prodigio, questo fantastico Federico Zaltron. Al cello Anna Campagnaro e Marcella Campagnaro, che sono due sorelle che hanno fatto questa parte nel nostro disco. Hanno suonato molto molto particolari come musicisti, come sound, da Renato Zero a Caposella, quindi molto molto molto brave. Declamazioni, abbiamo detto i diforisti, come li chiamo io, un po' da un concetto crampsiano, sì. Diforisti in tangente, avrebbe detto Gianni Sassi. Ha detto il concetto crampsiano, sottolineiamo, esatto. Crampsiano, esatto. Molto, sottolineiamo questo crampsiano. Cramps. Ok, esattamente. Basta. Vabbè, basta, chiuso. Roberto Freak Anthony, Pierpaolo Capovilla, Renato Marengo, il grande giornalista. Quindi anche produttore di tutta la musica napoletana, quindi vai da De Piscopo, sì, fino ad arrivare, certo. Poi c'è Antonio Leari, che è questo giovane scrittore che io ho conosciuto in, sempre in Cramps, per il libro su Demetrio Stratos, su Nino e sui Nomadi. Sì. E poi è un amico mio, insomma, perché condividiamo molte letture e molti musei. Poi registrazioni di suoni concreti e ambienti. Beh, io e la mia ragazza, che nei suoni in cucina, così per la ballerina di Tip Tap, insieme a Edoardo Piccolo, che ha seguito una pre-produzione con Federico Pelle a Vicenza. Poi Ombretta Rossi è una grandissima corista che ho conosciuto in studio con Diego Piotto, che è il nostro direttore artistico, quello che ha seguito, che dovevamo da solo registrare, poi lui è entrato nel nostro corpo e ha buttato fuori quello che state sentendo. Poi cos'è successo? Anzi, poi io e Marco con lei abbiamo detto: ma perché fare il Tip Tap e avere un batterista? Perché non chiamare una ballerina di Tip Tap? E allora è venuta Christine Gaser, una fantastica ragazza, e ha ballato Tip Tap su un brano che spero poi sentiremo. E poi al macchina da caffè espresso con tazzina, un po' un concetto un po' futurista di suoni, poi la Marinetti, esatto, c'è Riccardo Fresco un po' russolo e la macchina bottinatrice, rivettatrice, che avete appena sentito nella merenda del mago, la chiusura e anche l'inizio, è stata fatta da Gilda Nardotto, che siamo andati a registrare. Lei a tempo, bravissima, ha registrato la macchina. I testi, vabbè, l'abbiamo detto prima. Ma Alan, questa mania di estrapolare i suoni, le voci, i rumori, è una mania. Un po' alla John Cage, è possibile? Sì, io sono fanatico del futurismo e sono innamorato di John Cage. Ah, beh, benissimo. Sono, mi fa molto piacere. Sì, perché avendo lavorato e lavorando ancora per Cramps. Quindi Demetrio Docet. Beh, ok, sì, ma Demetrio, sì, ma Demetrio è al di sopra, è di sopra di tutto. Al di sopra di tutto, dai, quindi, dai, indiscutibile, ecco, è indiscutibile. Indiscutibile. John Cage è la figura moderna della musica che ancora non hanno capito. Cioè, ecco, dopo tanti anni. Comunque, questo shock che si chiama John Cage sicuramente mi ha colpito, perché è inevitabile, insomma. E poi ho la fortuna, ripeto, di suonare, lo dico sempre, i miei spettacoli con persone, non con musicisti. E quindi Marco e Lele hanno rispettato la possibilità, cioè quello che volevo, cioè quello di mettere nella musica anche suoni concreti registrati per la strada, perché io adoro Walter Marchetti, adoro Joan Hidalgo, volo con la testa quando ascolto Robert Ashley, Alvin Lussier, David Tudor. Quindi sono cose che bisognerebbe far conoscere la gente. Noi nel nostro piccolo, mi raccomando, nel nostro piccolo. Non fraintendetemi, perché non sarei mai scontrarmi contro un muro contemporaneo come i nomi che ho detto, però ci ha permesso di fare questo, insomma. Per dirti riguardo al concetto di Cage, sicuramente a parte il discorso rumori, ambienti o registrazioni, bravissimo, bravo, c'è proprio all'inizio della ballata di Nostro Signore, che è questa specie di pezzo che si compone in realtà di due parti, alla quale appunto dopo la prima parte segue una declamazione di Pierpaolo Capovilla molto bella. E all'inizio del pezzo ci siamo tolti la soddisfazione di usare anche il piano preparato, l'abbiamo preparato in studio, quindi anche quella è una reminiscenza proprio dei piani preparati alla John Cage. Ci siamo tolti anche quello sfizio, ci abbiamo messo dentro tutto quanto. E dobbiamo sottolineare adesso, per concludere il discorso di John Cage, John Cage era all'epoca è uno che ha inventato delle cose. Dimmi. Questi sono i suoni. Un infantile. Irripetibile. So che lui è il re del cortile. Io ero nel bagno della stazione. Su serio? Nel parcheggio della stazione lo vedi come fosse un lampione. No, non era grande. Bella comunque questa ricerca di suoni diversi, diciamo, tra virgolette. Sì, è proprio questo piacere di tuffarsi nel suono vero, no? Siamo abituati. Suoniamo, sono il 21:59. Sì, si suona. Che cosa? Voglio fare con Marco e Lele, voglio suonarvi il Tè nel Caspio. Perfetto. Questo brano, lo dico, è nato a Venezia, al Guggenheim. Però ero davanti a un'opera di Duchamp. E mi sono immaginato questo microcosmo dada. Si parla d'amore, ma in maniera sovversiva. Perfetto. La canzone si chiama, ricordiamo? Il Tè nel Caspio. dovrò stare ancora qui. Cos'è sta voce che non posso andare via? L'amor, io ti raggiungo dove sei. Avevi detto che tornavi dal Kashmir per quei tuoi fiori che fan bella la tua vita. Ladros, voglio godere insieme a te. Parole non ne ho mai detto a lei, ma oggi con il te vedrai. Potrei volare verso il mare di Baku, a metà strada tra le Indie e il bel paese. L'avion slow costa davanti al casco insieme a te. Dopo aver visto al museo Le Grand Vert, il primo bacio sopra il ponte in Gran Canale. Dada, l'amour che da Venezia va a Baku. Sei un fiore nel deserto. Potrei volare verso il mare di Baku, a metà strada tra le Indie e il bel paese. L'avion slow costa davanti al casco insieme a te. Tada, l'amour che da Venezia va a Baku. Fatemi fare il saltino che lo vedono anche da casa. Bravissimi. Adesso capisco perché Emanuele mi ha detto oggi, anzi ieri quando ci siamo sentiti, Emanuele, ah, non ti preoccupare per la voce perché lui si arrangia in tutto, c'ha tutti i suoi strumentini, ti ricordi, Emanuele? Sì, sì, mi ricordo. No, ma questa volta ha lasciato a casa la borsa grande, perché di solito c'è una borsa speciale dove ci puoi trovare qualsiasi cosa. Tipo allora, sei in negozio a un euro, tipo qualcosa. Sì, sì, allora la mia passione è un po', posso dire, un po' zappiana, no? Se Zappa diceva che oltre a essere un gran musicista era un grande uomo, se tu vuoi conoscere una società basta andare nell'autogrid della città. Ecco, allora io sono così e sono andato insieme a Roberto a Frick in un negozietto di cinesi e dopo aver fatto qualche battuta sui cinesi, ovviamente io e Roberto abbiamo preso un megafono, una pistola finta e una borsa in pelle. E quella lì, non vi dico tutto perché dovete venire a vedere lo spettacolo, comunque, ecco, quindi tutti questi oggettini così. Poi per quanto sentite riverberi, effetti così, sono anche stato istruito da Marco, da Lele, da Diego Piotto, quindi... A proposito di oggettini... Sono un prodotto. gli oggettini che hai citato, Freak, quel giorno che è venuto qua a fare la performance, di un'ora, sì, e mezza, ha preso un oggettino che aveva, non so se avesse comprato dai cinesi, con tutto un piano con tutti, toys piano, tipo si, sì, chiamano, esatto, toys, un toys piano piccolissimo, sì, che, sì, aveva, sì, tutti i suoni, anche la bucca ha tirato fuori, sì, ma è un concetto di Cage, cioè è una partitura di Cage, sì, sul first su un primo movimento di, adesso non ricordo, comunque c'è proprio il è vero. Su questo pezzo tu hai detto una cosa molto bella in una intervista o una cosa similare: l'immediatezza comunicativa della canzone mi ha sempre colpito. E questa è una immediatezza comunicativa della canzone, più chiaro di così. Sì, guarda, mi allargo un attimino con questo concetto, dimmi che riguarda un po' tutti i musicisti o i musicanti, o chiamiamoli come vogliamo, chi sia. E ti racconto anche un aneddoto, cioè mio padre, io suono da quando sono ragazzo e suonavo anche la chitarra una volta, insomma ne ho provate un po' di tutti i colori, però spesso mi sentiva provare o suonare, studiare, e ogni tanto veniva lì e mi diceva: ma ascoltami, ma io capisco tutto, ma ogni tanto mi puoi suonare una canzone, che, ma non perché non la capisse, ma proprio per il procedimento mentale di gustarsela, capisci? Perché la canzone può essere denigrata perché può sembrare semplice, anche se secondo me non lo è, perché vorrei che qualcuno facesse una canzone di Bob Dylan, per esempio, se parliamo del massimo, se vogliamo parlare anche di questo, o comunque di tutti quei personaggi che comunicavano all'istante e comunicavano a tutti senza barriere, perché comunque Bob Dylan era naturalmente anche un caso, perché era anche amato dalla comunità afroamericana, cioè, sì, comunque è un caso anche proprio per la canzone civica con la canzone di protesta, e lui è stato il capostipite fondamentalmente. Possiamo dire che se non c'era Woody Guthrie... Woody Guthrie ovviamente è stato anche... Perché chiaramente un'ispirazione per che lui, recepisse tutti i segreti di Woody Guthrie, andasse a trovarlo, Woody Guthrie forse ha avuto la, forse solo essendo venuto anche un po' prima, sì, certo. E forse anche per il tipo di mondo mediatico che c'era, che è scoppiato proprio poi alla negli anni 60, alla fine. Ma, forse... ma ti ricordi che Anthony Scaduto in una famosa biografia ha detto lui andava a trovarlo in ospedale, ma perché voleva recepire anche... È uscito anche un bel DVD sulla storia di Woody Guthrie ultimamente, certo, certo. Beh, ritorniamo, comunque, scusami, ritorniamo a dire. Esatto, cioè alla fine la canzone non è quella cosa semplice che uno pensa, la chitarrina da spiaggia, che può pure anche essere quella, cioè nessuno dice niente, perché dipende sempre da come è fatta una canzone. Se una canzone è bella la puoi suonare davvero anche semplicemente con una chitarra, è vero, chitarra, l'ha, no? L'ha detto tante volte Paul McCartney, come Paul McCartney, esatto. Continuiamo, esatto. Diciamo gente normale, gente assolutamente, esattamente, normale. Quindi comunque questo, cioè le canzoni devono anche comunicare, non tutte le canzoni del disco, cioè le canzoni sono tutte immediate, almeno musicalmente si capisce subito il mondo nel quale stiamo vivendo la canzone, alcuni testi sono un po' più profondi e quindi vanno davvero ascoltati anche su un'altra dimensione, su varie dimensioni, esatto. Sono vari strati nei pezzi. Questo è uno dei più diretti, uno di quelli che ci diverte anche di più suonare, ovviamente. E dimmi, lo ascolti, cioè, se ascolti il testo, capisci che è un amore un po' particolare, perché si baciano come tutte le persone, è il sogno dell'italiano medio, è quello di baciarsene sopra il canal grande, no? Certo. E però non sono due persone normali, sono due spacciatori. E non vendono droga normale, ma vendono droga per far sorridere la gente. Quindi è un concetto da. E se la persona legge più volte il testo, capisce questa finezza. Capito? E quello è il mio sogno, è dar sempre, non dar completamente tutto in un testo. Vorrei che lo finisse l'ascoltatore, capito? No, ho capito. Prima volta io mi sono trovato con questi due cavalieri che mi permettono di cantare in questa maniera, cioè non è facile. Tu canti anche fisicamente, canti? Sì, infatti. Ma è un mio, perché penso che proprio la voce sia corpo, quindi anche quando insegno dico sempre questo, cioè dovete sentirvi importanti perché siamo in pochi. Insomma, la tua voce è da vedere e da sentire. Ecco. E adesso io Marco, vuoi dire qualcosa? Marco, sì, lui è così, quando parla poi distrugge, capito? Cioè, quindi è proprio tipico, è un po'. Senti, Iva, già che stai parlando te, domanda Alan, mi raccomando, scusami, hai ragione, Alan. Alan Bedin. Cosa ascolti quando sei a casa? Allora, io sono un purtroppo ho una malattia, quella del collezionismo, perché appunto lavorando in Grams era inevitabile, e certo. Quindi ascolto tantissimo area. Anche il disco nuovo? Sì. Io conoscendo i musicisti, anche perché andiamo a suonare con loro quando il 23. Dopo lo citiamo le date. Sì, che sì, sì. Cosa succede? Io ascolto tanto Radiohead, perché comunque li ritengo adesso il gruppo più innovativo che esista adesso. E poi tanta elettronica, e comunque mi piace anche moltissimo, mi rilassa molto ascoltare il beat, quindi il soul, il northern soul, cioè quel genere da ballo, e quindi mi piace anche selezionarlo nei locali, cioè a me piace proprio vedere la gente che balla, perché c'è musica da ascoltare, perché devi dire qualcosa, ma anche musica che deve avere un aspetto un po' più ludico, divertente, quindi a seconda, in questo momento storico della mia vita, dove sorrido a un momento un po' particolare che mi sta succedendo così, ascolto elettronica. Che tipo di elettronica? Se ascolto roba moderna, ascolto Aphex Twin e Woman Toby. Sì. Invece se ascolto roba vecchia, mi piace molto l'effetto loop di Robert Ashley. Ho capito. Quella un po'. Ma non troppo contorta, non per cervelli fini. Cioè, perché la musica deve essere non interessante. Un'elettronica condita da psichedelia oppure no? I gong ti piacciono? Sì, ti piacciono sicuramente. Sì, mi piacciono sicuramente, ma però ho un'altra scuola. Cioè, se devo ascoltare il prog, ascolto italiano. Ah, ho capito. Quindi... Ma i gong sono prog fino a un certo punto, però. Sì, infatti. Infatti, ecco perché. Sai perché avevo citato i gong? Perché ho visto un disco. Cioè, se devo ascoltare il prog, mi ascolto il balletto di bronzo. Ah, hai ottimo. Trovarlo? Non è mica tanto facile trovarlo. Y l'ho messo da qualche parte. Sì, da qualche parte si trova. Alberto Falco da qualche parte, da qualche parte si trova. E poi anche cose che mi fanno scoprire i ragazzi, perché ovviamente con Lele ho scoperto molto jazz, soul, cose un po' particolari che non avevo mai conosciuto, magari anche nel Latin mi ha aperto tanto la testa. Invece Marco mi ha avuto la possibilità di farmi conoscere magari il Manouche, che io prima sì gli davo importanza, ma non così. E invece cavoli, ho scoperto che è un genere fantastico, insomma. Mi dispiace, non volevo. Sono io senza te. La conosci? Solo un attimo. Qui si li conosci comunque. Sì, sì, questo è un gruppo prog, ma non che si chiama? Aspetta, fermo. Sì, sì, sì. È già passato troppo tempo. No, no. Sei Mike Buongiorno. Sì, sì. Allora, mamma mia. Cosa credere? Poi c'è il premio. Perché anche no, c'è un amico. Non mi viene da dire il rovescio della medaglia, ma è impossibile. No, ma se l'hai appena detto. Balletto? Balletto. Sì. È Leonero, scusami. Esatto. Ma è l'agitazione. Poi è questo vestito sullo speaker. Questo è Sirio. Sì, sì, no, dovevo trovare una scusa. Sì, sì, vabbè, fai bene. Però, è Sirio, ma vedi? Vedi? Il Sirio è un qualcosa. Infatti parlavo anche con Leonero, che ho avuto la fortuna di fare una compilation con Riccardo Storti e per la compilation Progressive. Sirio è un disco che non ho ben ascoltato. Non voglio trovare una scusa per la mia lacuna. Sì, sì, una scusa, abbiamo già appurato. Grazie, ciao. No? Ciao. Marco, ho fatto la mia Marco, qualcosa anche i tuoi gusti, sì, esatto. I tuoi ascolti, Marco. Beh, mi dici il microfono. Un po' di tutto, cioè, qualsiasi cosa. Anch'io ho ascoltato un sacco di prog anni 70. Cose specialmente, adoro gli Area, per dire, Bano Banco del Mutuo Soccorso. È Bano Romina, Prog alla rovescia, quella probabilmente. Di... Vabbè, sono... Beh, io una volta in cucina stavi ascoltando Albano e Romina all'incontrario. Vai Marco, dai. E poi, bah, un po' di tutto, dal jazz, rock, qualsiasi cosa. Proprio non ho limiti, non hai di limiti, ascolto ti. Assolutamente, sicuramente ci sono ancora cose che devo scoprire, però. Certamente. Emanuele, vai. Cosa ascolto? Sì, cosa ascolti? So che ascolti tutto, però cerca di limitarlo in qualche secondo, così per dare un... Lo so che... Guarda, che... allora facciamo prima, ti dico proprio quelli che preferisco io. Alcune cose di Zappa, però a me piacciono proprio le cose orchestrali e i suoi assoli da 20 minuti, proprio per perché secondo me lui è l'unico che davvero, se faceva un assolo, aveva un senso. Sì. Aveva una grande band però anche dietro. Aveva una grande band, però il suo era anche la sua visione della musica. Sì. Sono d'accordo con te. E anche uno alcune sue strategie proprio per rendere questa cosa. E, boh, adoro Bob Dylan, mi piace. Dylan, che periodo di dire? Tutto oppure no, sei non avuto tutto, tanti periodi? No, no, non tutto, no, no, assolutamente no. I primi dischi soprattutto, cioè quei dischi là, quelli storici praticamente, esatto. Quelli che hanno fatto la musica di tutti. Esatto, cioè mi piace proprio il suono e la semplicità che, non so, non, è sbagliato dire semplice, però comunque la freschezza che avevano quelle cose. Qualsiasi cosa, la musica italiana, la musica classica, il jazz, mi piace davvero tutto. Non, quindi non, non sono, no, una volta ero più selettivo e magari stavo tre mesi ad ascoltarmi la solita cosa. Adesso proprio a ruota libera. A ruota libera, a ruota libera. Bene, adesso invece ascoltiamo. Certo, è ruota libera, sempre a ruota libera, tutto live, tutto live. Volete tutto live, qualcosa da disco? Così cosa da... Adesso fare? Suoniamo qualcosina, perché sono in piedi e non mi passa. Sì, mancano 15 minuti alla fine. Ok, allora facciamo una cosa, un regalone ai nostri amici. Allora vi facciamo un pezzo, occhio. Benissimo. Allora facciamo un omaggio a James Brown. Però cosa succede? Dopo Sanremo, che così tanto per ricordare quando Sanremo era ancora Sanremo, facciamo un pezzo di la trascrizione di Lucio Dalla. Sì, di? No, di Luigi Tenco per Lucio Dalla. Ah, perfetto. Mondo di uomini. Ok. Bene. Radio Veneto. Sì. Sei. Sei. di uomini, questo mondo di uomini, ma non sarebbe niente, niente, se non ci fosse una donna. Ma sì, l'uomo fa macchine e corre sull'asfalto, l'uomo fa rei e va sempre più in alto, l'uomo fa la luce e paura della notte, l'uomo fa le leggi per evitare tutte le notti. Ed è tutto lui, lui, lui, ma non sarebbe niente se non ci fosse una donna. Contento di vedere attorno a sé bimbi felici, lui fa giocattoli per farsi gli amici, e mille cose fa, fa l'uomo ancora sempre di più, l'uomo fa il denaro e compra tutti gli altri. Perché ce l'hai? Eccoci qua. Non so se hai visto la faccia che abbiamo fatto io e Maurizio, ci siamo guardati. Siete stati straordinari. Che bello, bello proprio nel senso vintage, nel senso positivo del termine. Come cantante, un cantante come si cantava un tempo. Il cantante al centro, gli altri strumentisti che lo seguivano, che davano la possibilità di esplorare vocalmente. Bravissimi, siete stati bravissimi. Scusatemi, fate altro, ma è un caldo qui che se dovessero... sei tu che ti muovi tanto. Siete dei criminali, saranno 40 gradi. No? Però ci saranno anche 40 gradi, ma ne hai dati altri 40 a te con la tua voce. Allora io devo dire una cosa. Dimmi, dai. Non ci dobbiamo dimenticare una cosa. Una cosa molto, molto importante. Infatti Marco mi ha dato un calcio nello stinco. Allora, magari qui non vedete purtroppo, ma comunque dal sito, entrate nel sito, vedrete che Magnetofono ha tantissima grafica. Certo. Ecco, lui si chiama Oz, e lui è Osvaldo Casanova. Il grandissimo Osvaldo Casanova, veramente, è il quarto elemento del gruppo, cioè praticamente... Se gli Yes avevano Roger Dean, noi vogliamo avere Osvaldo Casanova. Esatto. Lui è veramente una persona fantastica, perché oltre ad aiutarci nel mondo della grafica, è una persona proprio che dice quello che pensa. Quindi anche quando si suona, quando si crea, lui è uno dei nostri. Infatti nella ballata di Nostro Signore, questa creatività spinta, quella di incoronare il viso di Cristo con tantissimi cuori, ma in mano una Molotov. Cosa vuol dire? Che se non cominciate veramente a fare i bravi, vi elimino tutti. E questo è il concetto, certo, del Magnetofono. Quindi di dire cose molto importanti, capito? E il nostro manifesto sta in questo, cioè quello che sia grafica e musica si mettono insieme per arrivare alla gente in maniera particolare, perché pensiamo che semplicemente, mi permetto un attimo perché ho visto l'opportunità, il musicista, l'artista, quindi deve avere un'importanza e un ruolo sociale, e sociale in modo anarchico, ma non dobbiamo prendere paura del termine anarchico. Gli ideali dell'anarchismo possono sicuramente sembrare apparire tramontati e politicamente impossibili, per carità, però senza possibilità quindi di recupero e di ritorno nell'arte e nella cultura. Però bisogna dire questo, che dobbiamo mantenere noi artisti questa libertà sopra i palchi, questo modello di insubordinato e rivoltoso, quello della persona giovane che deve dire qualcosa, perché la rivoluzione ai giorni nostri sicuramente non si fa né con la violenza né nelle strade, ma lo si deve fare artisticamente, anzi deve sopravvivere questa forza, perché deve alimentare il messaggio, come lo fate voi ogni sera qui per radio, a livello civile, cioè quello di dare degli input, e deve operare sopra veramente al mondo, alle elementi degli uomini, attraverso i suoni di Marco, le mie gesta quando canto, le parole di quando scriviamo, così da ricondurre la gente, la volontà di combattere, ma non con la violenza, capito? Ho capito. Con questa... Con la parola. Con la parola. Esatto. E quindi modificare le convinzioni. Cioè, voi per radio questa sera dovete modificare le convinzioni. Io intanto non modifico niente, nel senso che faccio ascoltare qualcosa del vostro disco. Va bene. era molto a Vice Tempo, tipo titoli di coda. L'ho conosciuto Vice Tempo. Beato te, noi siamo no. 15 giorni fa a Sanremo, perché ci sono stato anch'io. Mi dispiace. Ecco. Allora, cosa volete ascoltare dal disco? Poi torniamo in studio per gli ultimi secondi. Guardate, una preghiera. Possiamo ascoltare quello con Frick? Una preghiera contemporanea. Cosa dici? Cosa vuoi fare ascoltare, Lele? Marco, dite voi. Io penso... Poi torniamo in studio con l'ultima canzone dal vivo, okay. Esatto. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi ascoltare, scusami? Dai, io dico la ballata di Nostro Signore. E un augurio a tutti quanti, mi raccomando. Ascoltiamo quella? Sì, grazie caro. Ok. Era solito sistemarsi gli occhiali, come un segno per chi lo guardava. Forse un vizio o un dramma infantile. So che lui è il re del cortile. Dal parcheggio della stazione lo vedevi come fosse un lampione. No, non era grande, ma attorno a sé richiamava la folla di un re. Un bel giorno io presi coscienza, senza remora, presi coraggio. Scusi agente, mi faccia passare, con quell'uomo io devo parlare. Dopo i calci e i tanti spintoni, arrivai a cospetto dell'uomo, dopo uno sguardo con tanto stupore. Senza dubbi lui era il signore. Era solo di nuovo vestito e mi stringeva la mano sudata. E il signore, giuro non mento, proprio quello del testamento. Su mi segua, le devo parlare, irripetibile questa occasione. Come vede, qui c'è un problema, qui non si vive, c'è recessione. Vedi figliolo, è una cosa voluta, tu sei il primo che chiede di questo, tutti gli altri mi hanno parlato, ma della crisi manco accennato. La ritengo molto importante, è un problema dall'alto lampante. Vedo ansia e scarsa giustizia, ma un bel prezzo per la vostra furbizia. Il problema di questo stivale, l'indifferenza al vuoto che sale. Per carità, non siete più schiavi, ma dov'è il grugno dei vostri avi? Non c'è più cuore né l'emozione, anche mio figlio n'era sicuro, che per cambiare la faccia del mondo l'unica cosa rivoluzione. Prendi me che sono la fede, ho fatto capire forse no. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Questo disco vuole riportare e rivalutare al pubblico l'importanza della musica d'autore italiana e la magia della registrazione dal vivo senza l'ausilio di massicci processamenti o impieghi digitali in post-produzione, non tralasciando quindi modalità, ambiente, musicisti ed esecutori di suoni concreti. Parole d'amore, pazzia, felicità e tristezza, ironia, voglia di cambiare gridando rivoluzione al mondo contemporaneo. Abbiamo realizzato il nostro primo LP in modo più autentico possibile, in maniera tale da valorizzare fin dall'inizio delle riprese un concetto mai abbandonato nella realtà della musica popolare italiana. Un disco che faceva già parte del nostro DNA, doveva solo uscire. Parole tue, Ana. Sì, mi sono stupito perché devo dire cose così intelligenti. E comunque... Ma le hai dette tu, No, no, ma infatti no, mi faccio paura, cioè in senso no. Come mi conoscono, però quando mi metto a scrivere cerco di dire quel che penso, insomma. Ecco. In questo pezzo musicalmente c'era un po' di prog esiste, viene, va, ritorna, se ne ritorna ancora. Fa parte del nostro DNA. Fa parte del nostro DNA, noi di una certa età e non soltanto ma quelli no, di una non certa. Soltanto. E non soltanto, perché il prog c'è un grande ritorno. C'è il grande ritorno, c'è anche il ritorno di David Bowie fra qualche giorno, quindi anche quello è un grande ritorno, sì. Secondo me Tony Visconti, sì. Docet, vedi, anche quello ha il nome di Tony Visconti, gente giovane non sa chi è, ma noi che abbiamo una certa età sappiamo chi è Tony Visconti. Siamo arrivati alla fine. Prima di chiudere però i vostri dati, se qualcuno volesse contattarvi, cioè il sito, il disco dove si può acquistare e quant'altro, insomma. C'è il nostro sito internet, ovviamente www.ilmagnetofono.it. Magnetofono si dice? Sì, il magnetofono. Il magnetofono. No. È libero arbitrio ogni libero volta. Arbitrio, perfetto. Dopo la prima scintilla. Esatto. L'ultima forse questa. Ma quindi quello è il nostro sito, scrive tutto attaccato. Perfetto. Scusami Ale. No, no, ti ho segnato il monitor, tanto ormai siamo così. Ricorda dove possono venirsi a sentire. Esatto. Ok, faccio gli annunci per la serata. Allora, ci troviamo domenica 10 marzo, cioè questa qua che arriva, al Mood di Altavilla, che, dove c'è questo spazio... Laboratorio creativo. Un laboratorio creativo. Ci sarà appunto, ci saremo noi. Freak. Anche Frick ci sento. Sì, sì, ha sposato la causa. Bene, bene. Il nostro ormai collaboratore di fiducia Osvaldo. Sì, che dopo lo sai che è Osvaldo Casanova che disegna dal vivo. Lo sai che abbiamo fatto la declamazione futurista in Piazza San Marco? No, non lo sapevo questo. È fantastico. Ci siamo messi e Frick con i megafoni e abbiamo letto la lettera che aveva fatto Marinetti ai veneziani passatisti. Ah, bellissimo. Gli abbiamo gridati in faccia ai negozianti. È stato bellissimo. Bene. Meraviglioso. E poi vai Lele, vai. Vai, meraviglioso questo. Sì, poi il 12 marzo siamo alla Santeria di Milano, che anche questo è un bellissimo spazio. Sì, famoso. Per chi sarà in zona. Perché, ma... Il 22 marzo saremo a Palazzo Pisani di Lonigo, lì ci sarà un'esposizione di quadri di opere di Dalì, di Ernst, ci sarà anche Osvaldo, ci sarà sempre il nostro carissimo vicino Osvaldo. A Salvador Dalì c'è Osvaldo, noi abbiamo le possibilità. Quindi il 22 marzo a Lonigo al Palazzo Pisani e con questa bellissima mostra anche, certo. E il 23 marzo apriremo un concerto un po' particolare degli Area. Ah, gli Area ricostituiti, esattamente. Sì. Esattamente, a Pordenone, al deposito Giordani. Bravo. Bene, poi grazie. Ce ne sono altre, ma insomma, va bene. Grazie a Marco Penzo al contrabbasso, grazie ad Emanuele Gardin alla tastiera, insomma, al pianoforte, e ad Alan Bedin voce, cioè a questo gruppo che ci sono venuti a trovare da Vicenza, appunto, il magnetofono. E Maurizio, noi ci vediamo, o meglio, giovedì prossimo con Diego Pettena, che è un cantautore padovano questa volta, sì. Provincia verso la provincia padovana, insomma, non sì, proprio ai confini con Rovigo. E lunedì comincerà il live di lunedì stavolta con un gruppo sardo, ci verrà a trovare un gruppo sardo dalle 22:30 alle 24:00. Ci sarò io perché Stefano è in Germania, quindi non è possibilitato a venire. Quindi ci sarò io che condurrò questo live assieme a Gilles Facchinelli alla regia. Sarà una cosa sempre divertente e interessante, come tutte le cose che facciamo noi a Blu Radio Veneto. Bene, lasciamo lo spazio a Renato Ferro, la sua heavy metal, la sua musica hard rock. Prima però ci ascoltiamo l'ultima canzone di questa band. Ciao ragazzi, grazie di essere venuti qui. Grazie, grazie a te. Ecco, questo è un brano, un titolo di coda, no? Sì. Lo facciamo spesso al fine dei nostri show. Si chiama La ballerina e Tip Tap. Tip Tap. Prego. Come posso riposare nel mio letto a Piazza Mezza con la ballerina che faceva il tip-tap? E se devo dirla tutta, lei vestiva solo delle scarpe verniciate per il tip-tap. Lei con colpi assai decisi, con i tacchi mi parlava, mi diceva io ti adoro con il mos. Maledetta ballerina, lei sapeva cosa dire, con la linea e con un punto tip-tap. Io capivo ogni tocco, ogni punta che sfiorava il pavimento della camera in parquet. E passione per il ballo, per lo swing in diavolato, e ama mille le parole del tip-tap. Ma ora smetti, non è più tempo di ballare, devi capire, la nobile arte non deve aspettare mai. Ho spinto la basciù, è ora dell'amore. Ho spinto la basciù, è ora dell'amore. Io ti prego mia regina, sono nuda ad aspettare, ti scongiuro basta con il tic-tac. Alle 10 devo andare a consegnare la chiave d'oro che doveva aprire il tempio del piacere. Quindi adesso che hai capito, vieni a letto senza indugio, è il momento di studiare il casco. E mi sembrava di capire, non ho dubbi da chiarire, resta solo un sogno quello del tic-tac. Bravi, bravi. Che bravi questi DJ. Bravi, bravi. Ma ora smetti, non è più tempo di ballare, devi capire, la nobile arte non deve aspettare. Ma ora smetti, non è più tempo di ballare, devi capire, la nobile arte non deve aspettare mai. Senti che bravo, vabbè, il pianista italiano è bravissimo. Ho spento la basciù, è ora dell'amore. ho spento la basù, è una bella amore. Qui adesso ci vorrebbe una ballerina indietata, perché io ero per lo scaramento per lei. Tocca, aspetta, zitto, fermo, chiudi la mano, per cortesia, e spegni la basù. Non è che sta situazione un po' così di sperare di far qualcosa, ma lei continuava a ballare, ballare, ballare. Titta, oh mia dolce ballerina di Titta, Titta, maledetta ballerina di Titta.